un filo è stato tagliato da qua, arancione ci manca, dal commutatore, poi ho visto ce ne manca dal uno verde tagliato, c'è il pezzettino, perché l'avranno tolto, non lo so, però non so dove andava a finire, non lo so, e ci manca. Poi c'è un trimmer 302 disperso da tutti quanti vicino dal vate in testata. Devo portarli qui, lasciali come sono, sai che magari fai danno. Questo che è interessato lo posso anche toccare, tanto vedo la posizione com'è. Troppo. Dimmi. Ma te l'ho girato appena, questo ha cambiato qualcosa? No, non ha cambiato niente. E così ha cambiato qualcosa? No, niente, niente. Così era prima. Papà. E noi così lo lasciamo. Siamo sull'11, come si fa a spostare il tavolo? Se voglio portare qualcosa, non lo so io, comunque va bene. E a voglia. Aspetta a vedere, perché a me mi manca la pagina da ricontrare, giusto? Che vedo un po' se regola la bicicletta, queste cose così. Però va. Sto girando il fine corsa, stavo girando troppo a sinistra, tutte e due pomelle, ha cambiato nulla, non regola, Ma non ha cambiato niente, è sempre uguale. Va bene, poi cosa c'è, Il corso non cambia niente, questo non fa nessuna cosa, perché per le stazionarie, Refighi e Michighi è questo qua, giusto? Sì, di qua, ha passato la radio, vero? Passa ancora un po'? Guarda a vedere. No, ma così. Quello è Michighi. Va bene, aperto va bene, sì. Sì che va bene, aperto, auguria. C'è il bipi pure. L'ho visto. Questo è il filtro, sì. Filtro, va benissimo, il filtro. E va così. Ascolta, Pompo, prova come faccio ad andare sopra qua. Tu canali ne hai lì? Sì, già ne ho canali, ho voglia. Spero che cambia barattino e così saliamo nei canali alti, aspetta. È positivo, là. Allora, ecco qua, sono col grande adesso. Ci sei? È positivo, ascolta, prova ad andare sempre su questo canale, in quello una volta sopra, prova a vedere. Yeah. Allora, io direi ultimamente, senza ombra di che va bene così come equalizzato. Medio alti, medio bassi sono abbastanza corretti o è troppo troppo spinta? No, trovo che non ci sia nessuna enfatizzazione più del normale. È enfatizzato a modo giusto, i tagli sono giusti, boh, per me fa bene. Sto ascoltando con Schneiser, quindi non scappa nulla, Molto bene, molto bene. Ok, Giovanni. Dandoli leggermente più di compressione, quindi tirando un po' più su questo, guarda, 1, 2, 3, 4, e dandola leggermente, ecco, una tonalità un pochino più medio-bassa, come va? Va sempre bene, spinge bene. Anzi, la trovo migliore così, la trovo più presente, più corposa, senza esagerare però, No, infatti, devo trovare la corposità giusta per senza esagerare. Quindi gli ho dato leggermente più di compressione sull'equalizzatore, quindi proprio dandole una leggera spinta sulla tonalità, quindi medio-bassa, senza però avere una spinta che rompa le orecchie, ecco dai. Quindi va bene anche così? Per me sì, per me è eccellente. E la modulazione non è, sai che, sai quelle modulazioni che alla fine poi stancano, questa è riposante, bella, è possente, però è riposante allo stesso tempo, capisci? È bella, presente, corposa, con l'impostazione giusta, medio bassi, medio alti, altissimi, pure va bene, almeno per la banda AM di questa frequenza va benissimo, ecco, non c'è niente da pretendere. Oltremodo no, perché poi sono sicuro che più di così va fuori, ma così è eccelsa. No, infatti più di così non fa, perché poi l'MC85 c'ha una tonalità un pochino troppo spinta. E alla fine è chiaro che poi non va bene. Infatti stavo facendo le prove in cuffie, però non è eccellente come presenza, se non hai il corrispondente che ti possa dire sì, dalle leggermente di tonalità medio-alta o medio-bassa, tutto lì, capito? E allora lasciamo stare così, dai. L'ho azzeccata un po' la prima. Lo volevo provare, ho detto, vediamo un po' se funziona bene, perché ce l'avevo in banda laterale, ma spinge talmente tanto che non riesco mai a regolarlo, quindi mi sono ripassato l'MC60 lì, che è stabile, qui in 27 si può alternare, anche perché questo c'ha due uscite, cavi due uscite, quindi uso due radio contemporaneamente con un solo microfono, e che si sentono molto le ventole, maledizione, perché è molto molto spinto come microfono. A te Giova, tutto bene? Sì, fine settimana di lusso, c'è una temperatura nuovamente un po' bassina, ma comunque diciamo che in compenso già va bene. Bene, e io come sai sempre in lotta, nel senso di lavoro, purtroppo per diversificare il proprio lavoro bisogna mantenere duro, altrimenti si rischia di andare fuori dal professionale e cadere molto in basso. Purtroppo chi vuole pescato adesso deve veramente trottare, ma trottare nel vero proprio senso della parola. Abbiamo i mezzi per farlo ovviamente, ma bisogna seguirlo e capire ovviamente, non distrarsi nel mare, questo è sicuro, né da altre parti, e via, possibilmente perdere tutti i vizi, queste sono le notizie. Poi del resto la temperatura non è male, un po' freschina, ma tutto qui, diciamo che questa settimana mi è andata benone, ecco, principalmente il tempo è tranquillo e via dicendo. Del resto il tram è sempre il solito, chi dà un servizio alla gente deve garantire un servizio buono e deve seguire la gente, perché purtroppo, oddio purtroppo, non viviamo soli, questo è il quanto, la tecla. È positivo, infatti il problema è quello che non viviamo da soli purtroppo. E allora bisogna seguire un po' le caratteristiche tecniche, tutto qua. Va bene, va bene. E sono contento che ho azzeccato a primo impatto la regolazione di questo microfono. Va bene, va bene. Che te devo dire? Per il resto tutto ok. Non ho sentito Pinuccio in questi giorni, ci siamo sentiti solo per telefono, mi ha detto che molto probabilmente in settimana scendeva a Sassari, però poi non l'ho sentito. Tu sai niente? Stavo parlando con lui, mi pare, ieri sera, ci era rimasto senza batterie in una bufera di neve, perché il generatore non caricava, non so se era come il suo, con quale camera, non ho capito bene. E poi aveva risolto appunto perché l'elettrauto non aveva fatto il lavoro che doveva fare in partenza, quindi lui non rendendosi conto perché era, mi pare, bruciata la spia del generatore e quindi non si è reso conto se stava caricando o meno, per cui è arrivato in mezzo alla bufera di neve e l'hanno praticamente scortato due tiri, uno avanti e uno dietro, probabilmente sai di quel camion motrice, se non arriva alla destinazione. E niente di particolare, poi noi ci sentiamo così ogni tanto, lo sai, con lui ho filo diretto, più o meno, dai. Quando posso entro, chiacchiero, e quando posso ci chiamiamo e via, del resto poi c'è sempre il lavoro che ci impedisce di fare quello che proprio vorremmo fare, ecco, o per passione o per hobby, chiamalo come vuoi, e via, anche se per me non è un hobby, cioè gli apparati, tutto quello che è elettronica, elettromeccanica, informatica, impiantistica, per me è lavoro, per l'utilizzatore è divertimento, ma io sinceramente non le ho solo le scatole piene, ma anche le tasche, no, e via, questo è giusto per ricapitolare che io appunto con le persone mi sento, ma in termini di, come si dice, di amicizia, poi non è costante la cosa, voglio dirti questo, proprio perché anche io mi scazzi ogni tanto con la te. Lo so, vabbè, ci sono anche quelle cose, Giova, che bisogna seguire un po' in particolare e quindi dare quel senso di vera amicizia. No, con Pinuccio lo stesso, anch'io ci vediamo, non ci sono problemi, tutte le volte che a Sassari mi chiama e non ci sono problemi, ho Giova, figurati. È che è un periodo anche per me è un po' particolare, perché sono incasinato al lavoro, sono da solo e quindi sai com'è. Si cerca di fare l'impossibile, per poter andare avanti come tutti, dai. Per il resto non è che ci siano molte cose da dire, Giova. Sempre uguale per tutti. Oioia, stare in mezzo alla società non è cosa da poco, e sapersi comportare di conseguenza non è cosa da poco, come tu ben sai, c'è chi va pure in binario, purtroppo chi non tiene si sgarra malamente in questo sistema, sgarra malamente, è così, e funziona così. Io sinceramente per l'amicizia, quando vuoi che si mantenga, come potrebbe dire, un piatto che vada o che venga, e su quello non ci piove. Però ci sono altri aspetti, giusto come hai detto, che sono molto importanti da rispettare e da tenere presenti, perché l'amicizia non è che è una cosa che la si prende, la si butta via o la si manipola come vuole. Per me è sacra, sotto molti aspetti è sacra. Credo che gli amici non sono fondamentali, perché nessuno nella vita è praticamente indispensabile, però è una cosa brutta, è un lasciare il vuoto, no? Sai, quando le amicizie o vanno male o non ci sono, che cosa lascia il vuoto? E uno non è che si consola così facilmente, perché gli uomini veri tendono sempre a comunicare, così come stiamo facendo noi con la radio. È incredibile, ma è quella voglia di comunicare. A te, Claudio. Lo so, è proprio quello, una voglia di comunicare che a volte ti porta a stare tranquillo e sereno, ma a volte sai, anche nel comunicare sono persone che comunicano in una certa maniera e quindi non riesci a fare capire determinate cose, alla fine non si riesce neanche a fare quello di buono. Vabbè, tutti possiamo sbagliare, per carità, sbagliare umano, diceva quello, però alla fine quando non c'è dialogo non si riesce neanche più ad andare avanti nelle cose. Però, diciamo che già va bene, dai, in compenso va bene. No, e sicuramente sì, non è che dovrebbe andare fuori. Sì, no, è andato. È tornato. Capito? Abbiamo parlato un po' appunto di questa realizzazione, le sto progettando i lineari, no, già sono a buon punto. E come al tempo appunto glielo inizio, diciamo. Infatti abbiamo ordinato quasi tutto, mancano delle cosettine, e poi l'ho riparato un po', ormai 23 canali, un radio, poi ti farò sentire da lì, un radio carino, ti dirò, è un Polman appunto, un X1000, non mi ricordo, sono dentro lì, ma poi sta pronti a consegnare, e niente, questo è il tutto, infatti sta fremendo, proprio, calma ragazzi, ci sono le tensioni, come dici tu, ti ricordo da un morfile e salvalvo. No, perché sai, no, loro non sanno, ovvero non credono che manipolare quelle tensioni è cosa antipatica. E non è che una volta progettato che lo chiudo, non è che devo andare di nuovo a rivedere se c'è tensione, capisci? Questo non riescono a afferrarlo. Sono cose abbastanza delicate e precise, per cui non bisogna metterci molto le mani solamente per fare prove, ecco, perché no, è antipatico di già di per sé. E appunto ti ho detto di tirare pazienza. Adesso mi dovremmo ordinare le apposito appunto con i professionali, stando RF, un signore che conosciamo. Io infatti ho cambiato anche il mio, mi volevo chiederti appunto come stava andando la cosa, gliel'ho messo apposito, adeguato Collins, due scambi con dati platino da mezzo centimetro ogni contatto platinato, dei cilindretti da mezzo centimetro circa ognuno, disposto in un certo modo, isolamento ceramica, bobinato 12 volts, cambiato praticamente, sono usciti forati 10 watt, sono nati 10 watt, cosa che si sapeva, il rosso è perfetto, di adattamento tra liceo trasmettitore lineare. Ma te ancora mi dirai, Claudio? No, perfetto. Alla grande, vai alla grande, senza nessun problema, segnale il tuo. 59 più 20, come sempre. E per il resto, con novità alla grande, tutto ok, Giovanni. Non ci stanno problemi. Tutto ok. Dammi un secondo, mi sta chiamando mia moglie, un secondo solo, arrivo subito, Giovanni. Avanti. Caro Gianni. Carissimo Gianni, doppio rum, e te se come ne dico? Benissimo. Aspetta, mi sembra che Claudio sei tu. Sembra qualcuno, c'è qualcuno che vuole entrare? ancora. Sul 7400, capito? Giusto per farlo andare un po', perché lo uso spesso in niente di particolare. Giusto così, due prove. Va bene. Doppio root. Adesso stai rientrando. Adesso, mi adesso sono arrivato al bivio di Plantamura. Sto passando dalla Budibuzzi e adesso comincio a fare la Budibuzzi. Benissimo, benissimo. Avevi sempre una schioppettata, nessun problema. Ah, vabbè, va meglio così, là. Oh, yeah. Adesso mi un bel bagnetto e mi ricompongo le ossa. Un bel bagnetto, avete andato al mare? Sì, sì. Acqua calda, acqua calda. Acqua calda, acqua calda, va bene. Bene, mi si mi ascolti di radio. Appa, tutti e tre vi ascolto benissimo, va. Fabrizio, con che radio stai facendo? Stai scendo benissimo anche tu. Con un baracchino sto uscendo, con un baracchino, dai. E ma già va bene, riprendi, e tu a che altezza sei già? E adesso ho imboccato la Budibuzzi, proprio dove stanno facendo stanno allargando la strada all'inizio. Ho capito, ma i lavori non erano ancora finiti. Negativo, stavo lavorando, ma stavo lavorando molto con calma, e magari hanno avuto problemi con la storia degli stroppi, eccetera, eccetera, e hanno rallentato per quello. È scoppiato Fabri. Avanti Giovanni. La luce sarà mancata. O la corrente elettrica, se non meglio così. Che cosa sarà successo a Fabri? Sì, no, ho toccato qualcosa che non dovevo toccare. E io vabbè, non fa niente, non succede nulla. Tutti due. Bene, fa bene. Comunque credo sta andando benissimo. Da parte mia sta super bene, ottima emissione, pacatissima, con i bassi canoni, ottima articolazione, appunto medio bassi là. Intanto su questa gamma ciò che si distingue, almeno ciò che permette ce l'hai tutto ottimamente ben equilibrato, almeno sullo spettro BF. Sullo spettro RF idem, perché non sento strascichi di niente, quindi dovrebbe essere spettralmente pulito, ad ancora. Sì, questo è noi, vabbè, con il qualitatore non c'è mai da fidarsi, infatti come ti ho sentito ti ho detto di darmi qualche dritta, no, avevo già più o meno equalizzato la modulazione, dai. Ok, questi qua in banda cittadina, equalizzare la modulazione è sempre un problema con questi microfoni spaziali che abbiamo un po' tutti, però linea di massima già va bene, non è un problema. Ok, va bene, avanti Fabrizio. Niente, sono qua, sono addormentato sul divano poco fa, sono andato a guardarmi un film e sono addormentato sul divano, poi mi sono svegliato e c'erano i bambini attaccati al computer, uno era là, l'altro era in stazione attaccato al PC guardando il cartone animato, ha detto che era il PC, ha detto buh. Quell'altro me ne è venuto con un pezzo delle cose dove tengo la tastiera che va sotto la scrivania, di scrivania, è stato da fare, cioè, ho fatto mia papà, piangendo mi ha svegliato, mettilo giù, gli ho detto, mi stavano smontando tutto. Il tempo di dire, ci guardiamo un film tutti insieme, sono coricato sul divano 10 minuti, addormentato, non ho potuto toccare il divano, per me è un sonnifero, un macello, vabbè, sai così, riprendi qua. Magari è stata accumulata, io vedi, lo fa anche a me, mi guardo di Max e poi mi dormo, e Marco, mio figlio, papà svegliati, io mi ha svegliato, perché dice che c'è 100 lavori per morire. O 1000 muri, cosa sia. 1000 muri per Marco. Fanno ridere qualche volta. Ciao. Boh. Dipende Fabri. Lo so. Vabbè, ma mi fa quell'effetto lì va. Però dopo prendo questa sonnolenza, poi mi sono messo in radio lì, mi devo cercare, stavo facendo, a un certo punto ho mollato perché mi ha chiamato mio figlio, sai, se mi riposo un attimo, e si è addormentato. Infatti poco fa poi sono rientrato, ho detto da quell'altra parte, stavo facendo due cose, poi stavo pattonando nuovamente, mi sono bloccato qua e niente, perché teniamo le uscite, sta lavorando, dovrebbe rientrare fra poco. Ho detto l'altro bambino, uno mi ha preso il portatile ed è sul letto, l'altro l'iPad ed è che sta giocando da una parte, tutti tecnologici questi bambini. E ci pensi che erano come noi, che cercavamo di farceli giù, che eravamo sicuramente più costruttivi, loro invece combattono contro i file, è qualcosa di costruttivo ugualmente. Intanto devono andare a vento, cioè con la moda dei tempi, e certo non possono ritornare indietro a costruirsi, che ne so, la bici, o a realizzarsi la bici a motore, o una racchetta, che ne so, non ce l'hanno quella manualità e quello stimolo, ormai è tutto pronto, Fabri. Anzi, ti dico di più, forse loro sono più svegli di noi, perché noi non avevamo le armi per poter fare quello che veramente avrebbe potuto dissettarci con il sapere. Non è che erano molto favorevoli quei tempi, dai, lasciamoli fare, loro trovano sempre la strada giusta, secondo me. Lasciali fare, se non fanno di peggio, lasciali fare, anche quella roba lì la devono usare, va bene. Oh, yeah. Riprendo, non riesco a capire una cosa, aspetta, devo controllare una cosa, riprendi già. E loro sono avvantaggiati, sono anche nel periodo della tecnologia, sono già avanzati. Io mi ricordo Marco che non sapeva ancora leggere, e lui spaziava nel computer, navigava, faceva, si cercava i cartoni animati, anche se non sapeva leggere, riusciva a beccarli lo stesso, te lo immagini. Da disegni, dalle cose, si veniva accorto, poi metteva la musica, cambiava il grafico, faceva, aumentava, regolava, guarda, e adesso è ancora di più, adesso sa fare tutto al computer. Cosa pensate, sono come noi, ci mettiamo del tempo per poter costruire e fare la roba, basta che guardino una volta. Sono molto, molto più veloci, la tecnologia per loro oramai è già bella che avanzata. Lei este, i pesi che si da solo Fabri, non ti sei accorto che quando eravamo ai 40 metri sono sparito, mi sono dormito e a Gadria. Tu pensi che sia da solo, tu, io, è un problema, la stanchezza è un problema, poi per chi lavora, io ho lavorato anche stamattina, lavorerò sicuramente un paio d'ore anche domani mattina, e quindi oggi a casa, infatti c'è il mio genero a cena, non prendere il pizzo, non prendere il fenì, voglio prendere quello, voglio prendere quell'altro. E io non aggiungo una gana, vabbè, comunque è così, va bene, quindi Giovanni, lascio tutto così, con l'equalizzatore e compressore inserito, comunque per capirci, io sto andando con, non l'ho mai provato, e come qualcuno a volte dice veramente, per me la modulazione non è un problema. Sto andando con l'IC7004 della ICOM, ho voluto fare una prova con il microfono, appunto quello della Donis, quello con l'equalizzatore, per vedere se riuscivo a sposare questo ICOM in 27, che molti dicono che gli ICOM non vanno bene. Io penso che non ci siano problemi. Infatti non ce n'è, sta facendo benissimo, è stato regolato perfettamente. Già, a volte no, non solo il capo vanno bene, perché tutti quelli che l'hanno provato, così inizialmente si parlava dell'850 e eravamo riusciti io e Natalino a farlo andare molto bene in 27. Poi ci abbiamo provato con Fabrizio e quindi abbiamo fatto tutte le relazioni eccetera, ci eravamo riusciti alla grande. Però sull'ICOM non ci speravo, fa infatti, dice che mi invento qualcosa da fare stasera, altrimenti mi viene la malinconia. E sono riuscito a equalizzare questo microfono, questo 908, che è simile a praticamente all'85 più o meno. C'è un sensore in più di equalizzazione, ma niente di particolare. Va bene, giù va. Prego. Sì, aspetta che io devo curare tutto adesso, vado a cenare. Un procedimento, Claudio, si lascia tutto così com'è, non toccare niente perché va eccezionalmente bene. E se qualcuno ti dice che non va bene, dimmi che si cambia la radio. Sinceramente, no, quando la cosa è fatta corretta, cioè è qualizzata così, cosa pretendi di più? Non siamo manco qui a Radio Country, non va bene così com'è. Più che bene, ripeto, per essere in questa banda e per la risposta frequente che permettono questa banda è completo. Tutto lì. Ancora buon proseguimento a tutti, una settimana a tutti, buon appetito per chi dovrà cenare, io vado appunto a tavola. Ciao, clarifere tutti. Sì, questo è Giovanni, ciao, grazie delle prove registrate break di mi pare Giuseppe, adesso ti faccio passare Giuseppe. Ciao, buonasera Giovanni, ben ascoltato, le prossime avanti Giuseppe. Sì, buonasera a tutti quanti i componenti del canale di Claudio, una cosa, come sta uscendo questa radio? Guarda, com'è il segnale, perché sto provando quella radio famosa, dai, quella omologata. Ah, va bene Giuseppe, il segnale è 9 più 10, la radio è 5 perfetta, alla grande, vediamo se ti ha sentito Gianni, avanti Gianni. Io li ho sentito, già va bene Giuseppe, alla grande, non so se sei a casa, però lo sto facendo bene, KK, vabbè, io ne approfitto per salutare perché sono arrivato, vi saluto tutti e vi auguro una buona carica quando la fate, va. Ci sentiamo e buona serata. Ok, ciao Gian, alla prossima, buona serata anche a te Fabi. Anche io saluto Gianni, saluto tutti che sono le 8 e inizio a fare niente, faccio un'altra spazzolata 10 minuti e poi colto è stato tra per arrivare mia moglie e poi si mangerà. A dopo, dai, ciao a tutti. Fabri, risposta di questa radio in 27 come va secondo te? Va bene, perché? 7400, ho commutato la Mantova, ho dovuto restringere un po' i filtri perché erano troppo larghi per la banda laterale, quindi risponde bene anche in 27. Sì, vabbè, non c'è problema. Ok, no, l'avevo provato Walter ma non mi piaceva. Forse vabbè non avevo fatto le regolazioni, io sto usando il microfono con l'equalizzatore, quindi forse per quello. Va bene, ciao Fabio, allora neanche io poi faccio una carrellata, guarda che c'è un po' di traffico in 14 a 14221, 14221 se ti può interessare, c'era anche un brasiliano poc'anzi, adesso c'è uno di Barcellona e qualcosa del genere, ho visto la sigla al computer. Va bene, dai, al limite ci sentiamo dopo in HF. Ciao, buona serata anche a te, alle prossime. Avanti, Giuseppe. Ciao Fabri, faccio gli auguri e buon anno, anche se non ci siamo visti. Buona calcia, buon tutto, dai. Ciao, sì, anche a te, auguroni. Giulio, un attimo prima di chiudere, guarda adesso, guarda, com'è, siete turbata. No, negativo, si è aumentato anche di segnale. Ah, cappa, perché ha attaccato un po' la segretaria a vedere un po' come si comportava, dai. No, vabbè, da 9.10 si è passato a 9 più 20 e la radio è rimasta invariata, Giuseppe. Ok, va bene così, dai. Ok, ti auguro una buona serata, buona carica, salutami e Corea e ci sentiamo presto, vai. D'accordo Giuseppe, chi è l'altro che vuole entrare avanti? Ho sentito qualcuno che cercava di parlarti sopra ma non ci è riuscito. Va bene Giuseppe, ci sentiamo, stammi bene, alle prossime, vai. Anche a me lontano un pochino dalla radio. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Buona persona per domani. Ciao Gianni, Capri 2, buonasera. Buonasera Giuseppe, salutoni a tutti, mi scopo nel suicidio, mamma mia. E poi a voi, riprendi qua. Oh, ciao già. Allora ti avvisi dal tocco del microfono, ciao, buonasera, ben ascoltato. Auguri anche a te per la Befana per domani. Ok. No, io sono proprio stanco, ma stanco, più stanco non si può. È tutta la sera che sono, ma quando sono rientrato in pigiama, mi sono già svegliato due o tre volte, adesso me ne torno ad andare nel divano, nel salone, mi sdraio nuovamente a guardare un po' di TV. Anzi, è già ora di cena, sono già le 8, dai. Ok, vi saluto e ci sentiamo semmai più tardi se ci siete già. Ti lascio in compagnia di Giuseppe, avanti riprendi. Ciao Giuseppe, alle prossime, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, grazie. Avanti Gianni, doppio, Gianni Capri 2. Ieri sera in garage, questo da poco, ho messo a posto bene, però. Poi sono salito a comprare un po' di cosette per Sarotto, fino a con una sera, a mettere in forno e tutto lì, e basta, abbiamo messo in moto i mesi per lunedì, e basta, le ferie sono finite, quindi domani ci prepariamo per lunedì. Ok, Giuseppe, riprendi? Eia, e beh già, tutto a posto, no? Ah, Giuseppe, tutto a posto, insomma, potrebbe andare meglio, hai capito? Ma ci accontentiamo. In bala mobile sei, Giuseppe? Come, non l'ho capito già. Io di QRM, ti dicevo Bassino qui, non so se mi stai ascoltando, penso di sì. Ok, se ti riaggancio da qualche altra parte, io ti rientro di un po' il cambio e niente. Che poi non so che ci sia sul canale 10, non lo va a portare, vediamo se entra qualcuno. Vabbè dai, già, che io sono arrivato a casa e ci sentiamo alle prossime, dai, se concida, dai. Fatela buona carica, salutami tutti quanti in Corea e una buona giornata per domani, dai. Ok Giuseppe, grazie da parte mia e da parte del QRA, hai capito? Speriamo che sia buona, anche domani così concludiamo in bellezza e niente, salute anche a te il QRA familiare, migliori, ma con il QRA che ti tocca così nessuno, vi faccio una spazzolata qui e anche nelle altre frequenze, giusto per ascoltare, per farmi l'orecchio, quando c'è gente qui già mi ascolto altre cose. Ok Giuseppe, di nuovo buona Befana e in bocca al lupo sempre, ciao ciao. Ciao già, tanti auguri, adesso che notte la casa controlla nella casa, non si porta carbone e marcio. Il passino Giuseppe, comunque penso anche cosa mi puoi aver detto, ok, di nuovo Giuseppe, buona serata, saluti a tutti, ciao.